ad alta voce. Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. Nona puntata. Il 17 dicembre Nuccia tornò da Frascati, che erano le 11 di sera. Ci era andata per la terza volta a fissare gli ultimi accordi con l'amica Weiss. La bambina sarebbe entrata al pensionato, Bianca lo chiamava così, dopo le vacanze dell'Epifania. Le cose si erano disposte bene, tanto bene e rapidamente, che faticava a convincersene. Era la sua vita che si ordinava e trovava pace, finalmente, a 38 anni. Tirare avanti come aveva fatto non era bello, con l'anima tagliata in due, il rimorso, la bambina che domandava di lei persino agli estranei, l'instabilità, la clandestinità. «Cosa ci fai a Roma?» terminavano le lettere di suo padre. «Di la verità, confidati, tu hai qualcuno». Adesso poteva spalancare le finestre e tirare il fiato. La mattina, e era il giorno 17, venerdì per giunta, lei che ci credeva, in libreria le avevano consegnato la risposta della sua casa. Accordato un aumento del 10%, roba da poco, ma abbastanza da rassicurarla anche da quel lato. La bambina Frascati ci sarebbe rimasta. In qualche maniera sarebbe riuscita a tenercela. C'era, fra la corrispondenza, un avviso di convocazione in via Alessandria, alla sezione, firmato da una Pignatti Enrichetta, mai intesa nominare, che aveva aggiunto a penna «chiedere di me personalmente». Fu sul punto di buttare l'avviso nel cestino, poi rifletté che ancora non si era lasciata vedere dopo l'iscrizione e bisognava andarci. Ci sarebbe andata il giorno dopo, sabato, nel pomeriggio. Difatti, alle 5, il giorno dopo, piantò il lavoro, c'era parecchia gente in libreria, e per far prima non prese nemmeno la borsa, si ficcò le sigarette in tasca. Aveva fretta. Fece di corsa la strada sino a via Alessandria, dove la Pignatti, dissero, stava per arrivare. Comparve solo dopo le 5:30. Una bionda, sui 30 anni, maritata da poco, che ostentava al dito una vera lucidissima. Molto cortese, molto sorridente. «Vieni di là con me, scusa il ritardo». La fece sedere in un piccolo ufficio vuoto, richiuse l'uscio dietro di sé con cura. Nuccia sapeva di doversi giustificare. «Non sono troppo assidua, anzi, a essere precisi, è la seconda volta che vengo in sezione. È che la sera esco di bottega alle 9, se va bene. Ma prego, compagna Lonati, non si tratta di questo». «Compagna Lonati?» Si oscurò. «Io sono Anna Corsi. Tu, insisté la bionda, sei la moglie del compagno commendatore Cesare Lonati». «Lo ero. Per conto vostro, qui alla sezione, io sono Anna Corsi, che è il nome che io ho dato e che figura sulla mia tessera. E perdona, tu chi sei?» Quella ebbe un sorriso poco meno che affettuoso. «Sono la responsabile della commissione femminile. Insegno all'Istituto Tecnico Antonietti, come avrai capito, siamo già entrate in argomento. Mi si incarica di una missione confidenziale. Il compagno Lonati, tuo marito, ora è a Roma». Nuccia si sentì rabbrividire. Si fece forza per dire: «Beh, ci viene spesso». «No, ora ci abita. E desidera, aspira, di riunirsi a te, di chiudere una parentesi disgraziata, riavere la sua bambina, sua moglie, la sua famiglia, insomma. La sua salute non è soddisfacente, sembra. È naturale che desideri mettere fine a una situazione dolorosa per tutti e due». «E a voi viene a raccontarlo?» «Sì, dico, non ha creduto necessario di parlare con me. Il commendator Lonati conoscerà il luogo dove io lavoro, se è al corrente della mia iscrizione qui. Tuo marito si interessa di te da tempo. con tutto il comprensibile impegno. Si è rivolto a noi perché interponessimo i nostri buoni uffici come di dovere. Meccanicamente, Nuccia si frugò in tasca per prendere le sigarette e non le venne fatto di trovarle. Tentò di dominarsi. Osservò, ma con la voce spenta. «E voi cosa c'entrate? Spiegami, la sezione non è una parrocchia, però può sostituirla. La sezione è una grande famiglia, vedrai». «Mamma mia!» si disse Nuccia a voce alta. Chiuse gli occhi, rattrappita nel gelo che la coglieva, i pugni rigidi nelle tasche del cappotto. Dimenticò dove fosse, la presenza di quella donna. «Compagna, stai male?» fece quella, alzandosi. «No, sto bene. Adesso lasciami andare. Credo di avere capito. Ma renditi conto, io non intendevo urtarti. Il partito non è una semplice associazione politica come gli altri partiti. Ha il dovere di seguire, di assistere i compagni e le compagne in tutte le loro occorrenze. Persino in queste, tu puoi contare sul nostro riserbo assoluto. Ma permettimi di credere che il nostro intervento sarà stato prezioso per il bene della tua famiglia. Solo in vista di questo ti abbiamo chiamata e ti prego di riflettere, di darci una risposta più tardi». «La risposta ve la do subito», disse Nuccia alzandosi a sua volta. «Ed è che mi sembra incredibile che non si rispetti l'intimità delle persone, degli iscritti sia pure. E se mi metto in contrasto con le vostre direttive, pazienza, cavatene le conseguenze che volete». Nella strada, la pioggia, che ora cadeva e le bagnava il viso frustata dal vento, le diede un senso di liberazione, di nettezza. Si riprendeva fisicamente, ma dentro era un franare di pensieri dolente, rabbioso. Al primo bar, un cognac, una mezza sigaretta, senza riconoscerne il gusto. Poi la bottega, estranea e irritante come i libri, il lavoro, tutto quanto ora. Si chiuse nel suo studiolo e lì infine l'orologio alla parete, che batteva le 6, la riportò a Walter. Alle 8 Walter sarebbe stato con lei, come ogni sabato. Era una certezza quella almeno e inconscia sino a quel momento l'aveva aiutata a stare su. Walter rimaneva. Il suo uomo era vicino, l'avrebbe riveduto fra poco, dovevano mangiare insieme. E il resto? Tutto a terra. Frascati, la tranquillità, l'ordine, la sua povera felicità. Tutto andato. Non pianse solo perché aveva l'inibizione. «Io piango a secco, non piango, non mi libero», aveva detto una volta. «Sono predestinata all'ulcera gastrica». Ma di nuovo la prese il gelo, stette tutt'un'ora addosso al calorifero e rimandava Holzener, il capo commesso che la libreria ronzava di gente, provava ogni tanto a bussare. E poi di nuovo si rimise. Aveva il prevalente istinto vitale che si accompagna all'equilibrio delle funzioni organiche. In altre occasioni persino se ne era rimproverata. Cominciò con stracciare le 2 righe di telegramma che aveva buttato giù per i nonni. «Non si fa niente, Giulia resta con voi». La precipitazione, cattiva, di distruggere, di farsi più male. Era giusto sentire Walter prima. Era utile. E rassegnarsi a andare da un avvocato. Che diritti poteva tirare fuori un Lonati che in 4 anni non si era dato la briga di chiedere notizie della bambina, di mandarle un saluto, una scatola di caramelle? E perché lei doveva arrendersi così, senza tentare una difesa? Walter l'avrebbe aiutata. Cercò di esplorare le possibilità pratiche, immediate di quell'aiuto. Lonati stava mettendo in moto il partito per imporsi, ma tutta la situazione di lei era legata a un uomo che nel partito contava, doveva contare un po' di più. Con tutti i suoi quattrini, quello era un parassita del comunismo italiano, Walter era una forza. Schivo, appartato, sin che si vuole, aveva un nome però, dei titoli anche ufficiali oltretutto. I suoi di Reggio l'avevano mandato a Roma con un qualche migliaio di voti di preferenza. Era bene in grado di neutralizzare quell'altro. Dal lato legale, se Lonati voleva piantare la grana, aveva anche lei qualche ragione da far valere. Puntava i piedi anche lei. C'era da combattere, questo certamente. Ah, lì inibita non era. Avrebbe ricominciato a combattere. Dal cuore le montava un'amara serenità al visetto pallido, tirato, mentre raggiungeva, con un quarto d'ora di anticipo, l'angolo di via Firenze dove si erano dati appuntamento davanti alla trattoria. La sera dell'Epifania, annunciò Ferranini come si furono seduti, andiamo insieme a vedere la Bohème. Sono passato ora al Teatro dell'Opera, danno la Bohème con un tenore che conosco, Gianni Raimondi. Da Bohémien in Loggione, cercò di scherzare. Si capisce, in compenso ci andremo e ci torneremo. In onore della musica d'opera, una delle rare aperture che avesse sul mondo delle arti, sul mondo in genere extrasocialista, Ferranini parlò mentre mangiava. Sull'argomento non era sprovvisto di idee, se anche non rivoluzionarie. Con la Bohème 1896 la lirica in Italia chiude. Dopo non è più venuto niente. E la Bohème intanto è musica bellissima, non ha speciali difficoltà per le voci, sicché va bene anche per le voci del giorno d'oggi. Walter, musica che canta. Cioè, oggi Menotti fa le opere senza melodia, come dire, facciamo il formaggio senza il latte. Walter, a proposito, prendi del formaggio, non hai toccato cibo? Non aveva quasi toccato cibo. Aveva vuotato il suo quartino di Valpolicella e quel po' d'alcol le diede la forza di cominciare a dire quello che le succedeva. Aveva bisogno di forza. Ascoltandolo, vedendolo mangiare, si era messa in mente che lui le fosse così lontano. Ferranini non la interruppe, non chiese particolari. Quando Nuccia ebbe finito, disse «E tu non te lo aspettavi?» «Dovevo aspettarmelo? Sono 5 anni che non si fa vivo. L'ho riveduto il mese scorso in treno. Tu ricordi in che modo? In che compagnia? Dovevo immaginare io che saltasse fuori ancora? A rovinarmi?» Ferranini scostò il piatto. Si appoggiò a braccia conserte sulla tavola, lo sguardo di sopra la testa di lei. «Ci siamo messi in mostra, Nuccia. Ci siamo fatti vedere. Qualche cosa bisognava che succedesse. Quello là adesso è venuto a stare a Roma, avrà trovato la maniera di fare soldi anche a Roma, in più si è fatto dare una carica nel partito. Allora tu lo sapevi e non mi dicevi niente? Insomma, è uno che meno ne parlo e meglio sto. Deve essere entrato come dirigente, si capisce, al centro diffusione stampa. Sarà per affinità con i suoi inchiostri. Ma a noi, Walter, non ci riguarda quello che lui faccia a Roma. A noi due ci interessa difenderci, posso dire a noi due? Perché? Non ne sei sicura? Ma per carità, se non ne fossi sicura divento matta. Ma spiegami tu. Che Lonati faccia il prepotente, niente di strano. È sempre stato un prepotente. Ma la Pignatti, perché si mette di mezzo? Il partito, perché si mette di mezzo? Perché siamo degli irregolari. Nuccia scandì e aveva una vampa sul viso. Irregolare e anche Maccagni in questo senso. Il tuo Maccagni lo sai pure, lo sanno tutti. Ha dei meriti che io non ho. Batté i due pugni sulla tavola. I meriti non c'entrano, io te lo dico. In ogni caso, trovo che anche lui fa benissimo. Sono cose che potranno disturbare i borghesi. Mia sorella, per esempio. Mia sorella mi bollerebbe di sicuro per la vita che sto facendo. Lei è la moglie di un colonnello. Lei è borghese. I comunisti sono borghesi. Può darsi. Stettero zitti tutti e due. A Ferranini gli si parò dinanzi la stanzetta di Torino, col povero Mazzola febbricitante, urlante. Però, aggiunse, se fosse qui il compagno Pisani ti direbbe che le rivoluzioni sboccano sempre al moralismo. Robespierre diceva, ogni attentato alla moralità, moralità sessuale intendo, è un attentato alla Repubblica. Quella era una rivoluzione fatta dai padroni delle manifatture. Io ti domando del comunismo, della rivoluzione comunista. E allora senti Lenin, la libertà nell'amore è un principio che non si accorda coi nostri principi. E io mi metto contro Lenin. Ma Walter, ma ti rendi conto? Mi dirai, sei una donna innamorata. No, sono una testa pensante e sostengo che non vale la pena di lottare per una rivoluzione se si conserva l'elemento caratteristico della vita borghese. Dice, il Komsomol in Russia prescrive che quando i ragazzi ballano fra ballerina e ballerina ci devono restare almeno 20 centimetri. Quelle sono storie. Comincio a credere che sia la verità. Certo, una volta il comunismo la pensava diversamente. Nel 19 in Russia si diceva che tra le varie forme di padronato da abolire c'era anche il diritto di possesso del marito legale sulla donna. Ti ricordi le teorie di Alessandra Kollontai? Ferranini chiuse gli occhi. Io, riprese Nuccia, moderando la voce, oramai mi sto facendo un'idea che l'ordine è il più grande istinto che ci sia. Si parte col programma di fare la rivoluzione, magari la si fa, e poi si finisce col sentire l'ordine come una necessità assoluta. L'ordine, la regola, il quieto vivere. E ci si incarognisce, ammise Ferranini, malinconico. Ecco, però mi incarognisco anch'io. Mi sono iscritta in principio di questo mese, adesso ho avuto la mia esperienza e fra me e mio marito la vedremo. Mi aiuterai a trovare un avvocato, sentirò dall'avvocato. In quanto alla mia tessera la riporto alla signora Pignatti, che se la tenga. Nuccia, dimentichi un particolare. Lui alzò il viso finalmente e la guardò in faccia. Siamo in due in questa faccenda. Tu rinunci alla tessera e nessuno te lo può impedire. Farai i conti con la tua coscienza. Ma la questione è di rinunciare anche a me, perché io rimango dentro e al posto dove mi hanno messo. Nuccia non rispose più. Le braccia abbandonate in grembo, guardava la costatina coi piselli sul suo piatto che finiva di raffreddarsi. Le tornava in mente quello che aveva detto alla Pignatti. La sezione non è una parrocchia, forse, ma il partito però è una chiesa. Una volta tanto bisognava dare ragione ai giornali borghesi che lo definivano a quel modo. E io, pensò, faccio all'amore con un vescovo. La conclusione grottesca non la fece sorridere. Eppure, mentre tornavano verso casa e camminavano sotto l'ombrello di lui, vicini e senza parlare, cercava già di tirarsi su. Era ancora una ragazza di coraggio, dopo tutto. La lettera, chiusa in busta gialla e con l'avvertenza strettamente personale, era scritta al ciclostile. Quindi non era che un modulo predisposto per i casi del genere, che non dovevano essere poi troppo rari. Dopo l'intestazione, direzione del partito, ufficio riservato, il testo era il seguente. Con riferimento alla visita effettuata a Rivoli, Torino, presso Mazzola, ingegner Roberto, iscritto alla sezione G. Bravin di Torino, il compagno onorevole Ferranini è invitato a formulare qui di seguito il proprio parere. A. Sul comportamento politico del predetto Mazzola Roberto. Venivano alcune righe in bianco a puntini. B. Sulle opinioni dallo stesso espresse. Altre righe in bianco. È pure invitato a indicare il provvedimento che ritiene opportuno. Richiamo, ammonizione, ammonizione solenne, deplorazione con diffida, sospensione dagli incarichi, espulsione. Mettere in evidenza, sottolineando, il provvedimento che si ritiene applicabile. Si prega di restituire la presente, debitamente riempita e firmata a questa direzione, sua sede, entro giorni due dalla data di ricevimento, di persona o mediante raccomandata. Il falegname con mansioni di portinaio, Giordano, a cui la lettera doveva essere stata consegnata dal fattorino del partito, al solito non si scomodò a uscire dal suo laboratorio. Ferranini lebbe dalle mani della bambina di Giordano, sul portone, la mattina mentre usciva. Non si sarebbe permesso di leggere per la strada una lettera strettamente personale, emanante dalla direzione del partito. Sicché riprese la via delle scale, si chiuse in camera e lesse. Era preparato a riceverla e preparato a rispondere. Appoggiato al cassettone, cominciò a scrivere senza bisogno di pensarci su. Lui che era sempre così perplesso quando si trovava con la penna in mano. non ci impiegò che qualche minuto. Comportamento onesto e sincero da comunista tutto d'un pezzo. Opinioni espresse. Un certo rigorismo pratico. Cancellò pratico e aggiunse e massimalismo. Provvedimento che si ritiene applicabile. Mise nessuno. Non mi pare che ci sia luogo a punire il Mazzola. Firmò e infilò il foglietto in una busta. L'avrebbe riportata lui stesso in giornata. E fu sul punto di tornar fuori. Doveva passare al Ministero della Pubblica Istruzione. Il compagno Fubini aveva scritto da Reggio pregandolo di interessare qualcuno al Ministero in favore di suo fratello, insegnante a Parma nelle scuole medie, che era stato vittima di un errore di fatto, pareva, nella graduatoria di un concorso. Fubini era il primo che gli chiedesse un favore e Fubini meritava di essere aiutato. Amico sicuro, serio, intelligente, uno dei pochi amici che gli restavano. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.